La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno. Questa puntata, almeno questa prima parte, è dedicata all'Africa, ai suoi drammi. Abbiamo un allarme che riguarda il Congo, dove donne sono costrette a difendersi con il fucile e a difendere i propri bambini. Il Congo, che negli ultimi anni è stato anche teatro di scene terribili come quelle dei bambini soldato. Per parlare però di Africa c'è anche un altro modo, un modo più intimo, diciamo, ed è attraverso la letteratura, attraverso i romanzi. È da poco uscito per Edizioni O Il mio cuore riposava sul suo di Lara Santoro, una storia che viene considerata un po' la mia Africa italiana. Noi abbiamo raggiunto Lara Santoro, che vive in New Mexico e che ha scritto questo romanzo in inglese. Lei comunque è italiana, è mezza italiana. E di che cosa parla questo libro? Anna è un inviata speciale, beve molto, ha un caratteraccio, vive pericolosamente, ma anche un grande cuore, quello per l'Africa, e questo romanzo è ambientato in Kenya. Sì, il romanzo si incentra sul rapporto tra questa giornalista, questa Anna, che, come appunto ha detto lei, beve, si arrabbia, però sta sempre in giro, e la sua cameriera, che è una donna africana di nome Mercy. E il romanzo parla di queste due donne, delle loro differenze, delle loro difficoltà, però questo gran rapporto alla fine tra che si sviluppa tra le due. Lei ha vissuto in Africa? Quanti anni ha vissuto in Africa? 7 anni. Dove, in Kenya? Sì, però ero di base Nairobi, però ero inviata, per cui andavo dappertutto. Che cosa ha acquisito dalle donne africane? Che cosa le hanno insegnato? Per me le donne sono la vera forza dell'Africa. Senza le donne io non so se ci sarebbe un pezzettino di terra non bruciata. Sono loro che tengono tutto, che mantengono l'equilibrio, quell'equilibrio precario che c'è, è dovuto a loro. Perché gli uomini africani sono in una specie di transizione, non occupano più il posto che occupavano nella struttura tribale, e quindi hanno perso, secondo me hanno veramente perso il senso di orientamento, di direzione. Sono le donne che si occupano praticamente di tutto. Ecco, lei nel suo libro denuncia anche una battaglia delle donne africane contro l'industria farmaceutica che specula sull'AIDS e nega poi i famosi farmaci salva vita. Ancora c'è questa situazione, l'AIDS è una piega endemica oramai in Africa, c'è un modo per arrestarlo? Sì, c'è un modo. Io quella protesta di donne l'ho immaginata, non è purtroppo mai successa, spero che un giorno succederà. Quello che si può fare adesso e quello che possono fare i governi africani è rilasciare ciò che in inglese si chiamano compulsory licenses, che sono praticamente dei permessi. Il governo prende una formula brevettata, la dà come proprietà intellettuale, la passa a un produttore locale, e i produttori locali producono questi farmaci loro localmente a una frazione del costo, del prezzo. Lei adesso non vive più in Africa, no? Vive in New Mexico. Quanto le manca questo continente? Moltissimo. Non ho ancora avuto il coraggio di tornare. Però spero, perché io sono scappata dall'Africa, sono veramente scappata a gambe levate. Però spero di tornare un giorno. Poi io, il padre di mia figlia è rimasto lì, per cui lei stranamente continua a tornare, mentre io ancora non ho il coraggio. È scappata perché la situazione è troppo tesa, è troppo pesante? Sono scappata perché alla fine non ce la facevo più, avevo visto troppe cose, avevo fatto troppe cose, non ce la facevo più, sono dovuta venire, mi sono rinchiusa in questo posticino nel Nuovo Messico, che ci sono 5.000 abitanti in mezzo a un deserto, non ci sono problemi di nessun tipo. Negli Stati Uniti un po', diciamo, si è rinchiusa di nuovo nel mondo occidentale? Sì, sì. Aveva bisogno di Occidente, cioè non si, la vita è talmente tanto dura che non si riesce poi purtroppo a viverla per tutta la vita, almeno noi occidentali in questo siamo fortunati perché possiamo scappare, appunto. Allora, Lara Santoro, io lo ricordo, è una giornalista italiana che lavora per la stampa internazionale, ha vissuto in Africa e negli Stati Uniti, suo è Il mio cuore riposava sul suo, in inglese Mercy, quindi dedicato a questa donna africana. Sì. E qual è la caratteristica di questo personaggio, Mercy? Mercy è era una ex prostituta che poi era diventata una spacciatrice di muratina, che è questa sostanza illegale che si consuma molto di frequente nelle baraccopoli dell'Africa. Poi era diventata da lì, aveva perso il controllo del proprio business ed era diventata cameriera ed era finita con Anna a fare semplicemente la cameriera, però da cameriera era diventata prima amica, poi giudice, poi veramente la salvezza di Anna alla fine del romanzo è questa donna africana, è Mercy, perché è tramite Mercy che Anna, insomma, smette di bere, smette di fare tutte le cose che la portavano sull'orlo della distruzione, dell'autodistruzione. La ringrazio, allora attenderemo anche il suo prossimo romanzo. Nel frattempo Il mio cuore riposava sul suo. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci, grazie. E sempre per parlare di libri abbiamo con noi Don Giulio Albanese, autore di un saggio, I bambini soldato, giusto Don Giulio? Soldatini di piombo. Soldatini di piombo. Lei è editorialista per l'Africa dell'Avvenire, direttore della rivista Popoli e Missioni, è anche prima di tutto un sacerdote missionario comboniano. Lei ha vissuto molti anni in Africa, la situazione del Congo oggi com'è rispetto al passato? C'è un allarme sulle donne soldato? Noi appunto sappiamo dal passato che recentemente, negli ultimi anni, c'era stata questa piaga dei bambini soldato. Non è una novità l'impiego delle donne, delle bambine nelle formazioni ribelli nell'Africa subsahariana, direi che è una vecchia storia, questo fenomeno è stato riscontrato addirittura negli anni 90 in Sierra Leone, nelle file del RUF, del Fronte Unito Rivoluzionario, come anche nel Nord Uganda, i ribelli del Lord's Resistance Army, diciamo che quasi il 40-50% di questa compagine armata era formata da bambine, e questo fenomeno direi è venuto alla ribalta adesso recentemente nella ennesima edizione della guerra congolese, perché poi in Congo, non dimentichiamolo, ormai da tanti anni purtroppo vi è, soprattutto sul versante orientale di questo paese, una forte instabilità. Se però me lo permettete, visto che stiamo parlando nell'ambito di un programma che ha a che fare con la quota rosa, quindi con le donne, volevo citarvi velocissimamente un proverbio che ho sentito per la prima volta in Uganda, sulla bocca proprio di una professoressa dell'Università di Makerere, che tutto sommato esprime proprio questa grande voglia di dignità delle donne delle Afriche. Io parlo sempre al plurale perché è un continente, l'Africa, tre volte l'Europa. Ebbene, in Africa se educhi un bimbo, educhi un uomo. Se educhi una bimba, educhi una nazione, un popolo. Questo a significare che comunque le donne in Africa, nel contesto delle Afriche, non solo rappresentano in molti casi l'intelligenza, perché non dimentichiamo che in Africa abbiamo anche i matriarcati, ma poi di fatto le donne sono quelle che lavorano di più, sgobbano di più, sono quelle che producono il 63-64% della ricchezza continentale. A dire il vero, tra parentesi, questo non vale solo per le Afriche, è un discorso estendibile anche ad altre realtà. Anche in tutti i paesi del terzo mondo sono poi le donne che si fanno carico molto spesso della famiglia. Don Giulio Albanese, ma qual è la situazione politica del Congo? Perché prima si chiamava Congo, poi si chiamava Zaire, adesso si richiama Congo, c'è talmente tanta dittatura che si riesce a cambiare il nome di uno Stato? Adesso si chiama Repubblica Democratica del Congo, da quando nel maggio del 97 la capitale Kinshasa cadde nelle mani dell'allora leader ribelle Laurent Désiré Kabila. Questo determinò la fuga del vecchio dittatore Mobutu Sese Seko. Attualmente chi governa il paese? Il paese è governato da Joseph Kabila, che è diventato presidente proprio grazie allo svolgimento, questo va sottolineato, di elezioni democratiche. La questione di fondo è che vi è un'instabilità cronica. L'ultima guerra congolese, quella esplosa il 2 agosto del 1998 e che si è procrastinata per oltre 5 anni, è costata la vita ad oltre 4 milioni. Secondo alcune fonti indipendenti della società civile si parla addirittura di 5 milioni di morti. Recentemente, nell'agosto scorso, vi è stata un'ennesima edizione di questo conflitto, proprio per iniziativa di un leader ribelle che appartiene alla famiglia dei Banyamulenge, imparentata con i Tutsi del Ruanda e del Burundi, un certo Laurent Nkunda, il quale ha cinto d'assedio una delle principali città congolesi sul versante orientale, la città di Goma. Diciamo che questo ha causato sofferenze indicibili alla popolazione civile. È difficile spiegare in poche battute che cosa effettivamente è successo. Diciamo subito per la cronaca che Nkunda è stato destituito e questo è un fatto importante. Però è chiaro, come diceva un vecchio economista francese, Frédéric Bastiat, dove non passano le merci, passano gli eserciti. Le guerre che si sono combattute in questi anni nel Congo sono legate innanzitutto e soprattutto al controllo delle immense risorse minerarie di questo paese africano, che non dimentichiamo è il secondo per superficie del continente, con 2 milioni di chilometri quadrati. La quota rosa. E torniamo a parlare dell'Africa, torniamo a parlare del Congo. Abbiamo visto su Repubblica.it, ma anche su molti altri giornali, delle foto agghiaccianti durante questa settimana delle mamme con i bambini e con i fucili in mano. Don Giulio Albanese, lei ha detto il problema del Congo sono le immense risorse minerarie. Diciamo che le materie prime sono oro, diamanti, ma c'è in particolare un materiale, una lega naturale di columbio e tantalio, che si chiama in italiano rutilio, in inglese rutilius e in francese coltan. E ce n'è davvero tanto, sia in Sierra Leone che nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Ironia della sorte, ce n'è molto proprio laddove c'è stata questa recrudescenza bellica, nel nord Kivu. Lega naturale di columbio e tantalio. Il columbio si chiama anche niobio e lega con il titanio, è il miglior superconduttore al mondo. E il tantalio è presente anche in un altro minerale, la tantalite, direi in percentuale anche più elevata. Il tantalio viene utilizzato per la componentistica interna di tante cose, pensiamo per esempio ai nostri cellulari, i microchips e quant'altro. E poi addirittura viene utilizzato nella tecnologia militare, questo mi è stato detto recentemente, addirittura in sostituzione del cosiddetto uranio impoverito. Ma adesso, al di là di queste considerazioni, il dato inquietante è che proprio perché le Afriche, il Congo, hanno tutte queste ricchezze, il paradosso è proprio questo: tutta questa ricchezza diventa davvero un fattore di alta instabilità dal punto di vista proprio politico, e a pagare il costo più alto, come al solito, è la povera gente. E non v'è dubbio che le donne in questo frangente in Congo siano quelle maggiormente esposte, e il fatto che alcune di loro siano state costrette ad imbracciare il fucile significa tante cose, e questo può significare che questo è un modo, un mezzo per difendersi, anche perché purtroppo di milizie e bande armate ve ne sono davvero tante, a bizzeffe, a destra e a manca. Purtroppo è anche vero che però molte volte le donne sono quelle, ma soprattutto le bambine, le più giovani, sono quelle che vengono utilizzate nelle operazioni belliche da parte dei ribelli, fondamentalmente per due motivi: perché innanzitutto non costano niente, perché sono costrette molte volte con la forza a combattere, e poi perché sono facilmente, diciamo, manipolabili, nel senso che i ragazzi rispondano al diktat degli adulti, lo devono fare per forza. E naturalmente le ragazze sono quelle che poi, e questo forse è un terzo aspetto che solitamente viene lasciato nel cassetto, sono quelle che proprio per fatto di essere donne, ecco, spesso si verificano fatti di abusi sessuali e quant'altro, che davvero sono atti criminali. Che purtroppo siamo abbastanza a conoscenza. Andrebbero condannati, e purtroppo, ahimè, ai noi, non avvengono solo a quelle latitudini. Io la devo interrompere perché abbiamo con noi l'onorevole Margherita Boniver del Popolo della Libertà e l'onorevole Francesca Maria Marina del PD, membro della Commissione Estere della Camera, tutte e due. Prima, una prima domanda a Margherita Boniver, PDL: cosa può fare? aiutare il nostro paese, per aiutare il Congo, per aiutare le donne in Congo? Ma quello che può fare è stato in qualche modo già impostato ed non è soltanto una presenza ancorché simbolica, militare nelle zone devastate dalla furia omicida della guerra tribale interetnica, ma soprattutto il supporto al programma dell'ONU che combatte contro l'utilizzo dei cosiddetti bambini o bambine soldato, che è un devastante processo di disgregazione di centinaia di migliaia di esseri umani che vengono arruolati con la forza e la violenza a partire dagli 8 anni, figuriamoci, tra gli 8 e 13 anni, questa è l'età media, e vengono drogati e addestrati, fra virgolette, a uccidere e torturare. Quindi questo è un problema sul quale l'Italia e molte, naturalmente l'Unione Europea, si è impegnato con fondi, con expertise e soprattutto di supporto al rapporteur speciale dell'ONU sulla questione dei bambini soldato. Lei si è recata alle volte in Africa, ha visto queste realtà da vicino, onorevole Bonive? Non esattamente, cioè non sono mai stata in Congo, ma dobbiamo capire che il problema è tipico di larghissime zone in moltissimi paesi africani, per esempio l'Uganda, per esempio la Sierra Leone, per esempio molti paesi poverissimi della zona subsahariana. Non c'è soltanto la questione spaventosa della condizione femminile delle donne in Africa, c'è anche la questione della schiavitù che esiste e ancora viene praticata in alcuni paesi africani. Quindi diciamo che è un intreccio di storie, di violenza e di miseria e di sottosviluppo che sono assolutamente incredibili da leggere e molto difficili naturalmente anche da affrontare ed eliminare. Però l'impegno, io credo, dell'Unione Europea e dell'ONU su questi temi non è di ieri, è da molti anni, e qualche progresso in qualche modo lo stiamo facendo, visto che ad esempio il primo processo che si terrà di fronte alla Corte Penale Internazionale è proprio nei confronti di un ex signore della guerra civile congolese, Thomas Lubanga, il quale sarà processato all'AIA per crimini contro l'umanità, per genocidio, per l'utilizzo di decine di migliaia appunto di bambine e bambine soldato. Onorevole Francesca Maria Marinaro, membro della Commissione Affari Esteri del Senato, il nostro paese appunto è piccolo, che cosa può fare però per aiutare queste donne? Io credo che ci possono essere due livelli. Uno è quello istituzionale, in raccordo con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, che ha appena accennato l'onorevole Bonivar, con la quale concordo sicuramente. Soprattutto c'è la necessità che l'Unione Europea e l'ONU ridiano slancio e forza a un impegno di tipo nuovo rispetto all'Africa. Credo anche concordandola con i paesi del Nord Africa, perché appunto senza una cooperazione ampia e larga rispetto a un continente così vasto e così flagellato da fenomeni come quelli della violenza e della miseria, c'è bisogno appunto che ritrovi un posto forte nell'agenda politica internazionale. Secondo luogo, quello che possiamo fare nel nostro paese appunto è di parlarne, cioè di diffondere appunto queste situazioni e atrocità che si vivono in questo continente a noi vicino, anche perché spesso poi sono fenomeni che comportano la fuga, almeno per quelli che ci riescono, e molti di questi giungono nel nostro territorio. Come immigrati clandestini molto spesso, certo. E come schiave del sesso, come sappiamo, certo. Le prostitute nigeriane abbiamo molto spesso denunciato, no? questa piaga anche in Italia. Don Giulio Albanese, cosa può fare, lei che ha vissuto tanti anni in Africa, cosa può fare il governo italiano che non ha mai fatto, per esempio? Essere estremamente più rigoroso nel controllo del traffico delle armi. Perché purtroppo ci sono anche armi italiane, e non solo italiane, anche dei paesi dell'ex Unione Sovietica che circolano. Ci sono alcune parti dell'Africa, non solo nel Congo, ma per esempio in Somalia, nello stesso Darfur, ci sono località in Africa dove è più facile acquistare una manciata di proiettili che un tozzo di pane, e questo la dice lunga. C'era solo una considerazione che volevo aggiungere, poi per quanto concerne lo scenario. E ho visto con i miei occhi i ribelli, per esempio, del Lord's Resistance Army nel Nord Uganda, forse la compagine che in questi anni ha arruolato più bambine, e la cosa interessante è che questo movimento ribelle attualmente è operativo proprio in territorio congolese. Ebbene, in questo caso sia i ragazzi che le ragazze combattono non sotto l'effetto di sostanze stupefacenti come si credeva, ma sotto l'effetto di una ipnosi collettiva. Questo dimostra quanto questo fenomeno sia davvero diabolico, e dimostra anche quanto purtroppo la disinformazione in questi anni ha fatto sì che questo dramma purtroppo rimanesse nel cassetto, perché non dimentichiamolo, il problema delle ragazze soldato, dei bambini soldato, è una questione davvero di antica data. Ecco, abbiamo sentito allora, onorevole Margherita Bonimer, un suggerimento da Don Giulio Albanese, è proprio quello di controllare più il traffico d'armi. Sì, su questo naturalmente l'Italia è impegnata da decenni, forse uno potrebbe chiedersi con quali risultati i paesi che cercano di controllare il traffico d'armi, quali obiettivi sono stati raggiunti. Temo che sono obiettivi raggiunti solo molto parzialmente, perché come vediamo praticamente in ogni crisi internazionale, ma anche per parlare un istante anche del Medio Oriente, i fondi per acquistare le armi e per fomentare terrorismo, o in Africa per arruolare e massacrare le giovani vite dei bambini soldati, non mancano mai. Questa è una questione importantissima sulla quale non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Però allora, è un compito molto molto difficile. Ecco, lei si impegna come membro della Commissione Esteri a cercare di vedere che cosa sta facendo il nostro paese. Ce lo promette? Certamente. Anche l'onorevole Francesca Maria Marinaro? Certamente, anche congiuntamente, se l'onorevole Bonivere è d'accordo, perché ritengo che questi sono temi e questioni che vanno fatto in uno spirito appunto bipartisan nelle istituzioni. Ma noi conosciamo infatti l'onorevole Margherita Bonivere, non è la prima volta che viene da noi, speriamo proprio in questa vostra unione per vedere di cercare di controllare questo fenomeno terribile che è il traffico d'armi, ma sappiamo uno dei più remunerativi insieme a quello della droga, insomma. Concludiamo con Don Giulio Albanese, c'è una speranza per il Congo? Sì, c'è la speranza, e risiede soprattutto direi nella società civile. La società civile dell'Africa subsahariana direi che ha proprio il Congo come culla. E quando parlo di società civile mi riferisco ad associazioni, gruppi, movimenti, chiese cristiane in primis. Sono delle realtà che fanno davvero il tifo per la gente e potrebbero rappresentare davvero il vivaio per una nuova classe dirigente, guardando soprattutto al futuro. E noi cercheremo appunto di avere delle buone notizie finalmente dall'Africa subsahariana e dal Congo. Ringrazio le nostre ospiti e Don Giulio Albanese, editorialista per l'Africa dell'Avvenire e direttore della rivista Popoli e Missioni. La quota rosa. Oggi è un grande giorno per il Paese, un grande giorno anche per la politica, un grande giorno per il Paese perché la Camera ha approvato il disegno di legge che introduce anche in Italia il reato di atti persecutori e di molestie insistenti. E quindi mi auguro che il Senato vorrà approvare celermente il disegno di legge e dal giorno dopo le donne avranno uno strumento in più per potersi difendere contro quegli atti persecutori, contro quei comportamenti invasivi, intrusivi, intrusivi, ossessivi, che rendono la vita delle donne un inferno da un punto di vista psicologico, ma spesso anche da un punto di vista fisico. È un grande giorno per la politica perché c'è stata condivisione sul testo da parte di quasi tutte le forze politiche di opposizione e di maggioranza. C'è stata molta discussione in questi ultimi giorni sugli stupri che sono avvenuti, che cosa ha intenzione di fare il governo? Ma credo che il governo abbia dimostrato di avere non solo grande sensibilità su questi temi, ma anche di avere la consapevolezza che si tratta di priorità da affrontare subito con determinazione e decisione. Non è un caso che il disegno di legge che introduce in Italia gli atti persecutori, il reato di atti persecutori, e quello che prevede aggravanti per il reato di violenza sessuale, che rafforza la tutela penale contro gli atti di violenza sessuale, siano stati approvati in un Consiglio dei Ministri del 18 giugno, quindi in uno dei primissimi Consigli dei Ministri. Successivamente il Ministero per le Pari Opportunità si è fatto promotore di altre iniziative, come la predisposizione di un protocollo d'intesa con l'Arma dei Carabinieri per istituire un gruppo con finalità di studio, monitoraggio e analisi del fenomeno, e anche un protocollo con i comuni di Milano e di Roma per prevedere l'installazione di 1000 scatole rosa in 1000 auto di donne che si trovano maggiormente a rischio per le fasce orarie in cui lavorano, oppure per i luoghi periferici in cui magari abitano. Quindi è un tema che ci sta molto a cuore. Credo che in 8 mesi abbiamo dimostrato di essere consapevoli della gravità anche degli episodi che sono accaduti in questi mesi. L'avete riconosciuta, il ministro delle pari opportunità Mara Carfagna. Allora, giovedì la Camera ha approvato il disegno di legge sullo stalking e questo disegno di legge andrà poi al Senato. Abbiamo con noi, per celebrare questa piccola vittoria femminile, l'onorevole Barbara Saltamartini del Popolo della Libertà e l'onorevole Paola Concia del PD. Io però ho assistito, perché mi trovavo alla Camera quando è stato approvato lo stalking, a degli episodi non molto carini, nel senso che l'aula era piena di donne che parlavano, di onorevoli deputate molto agguerrite che battagliavano su un emendamento. Mi ricordo anche l'onorevole Paola Concia, che ha avuto un battibecco con il ministro, in primis anche il ministro delle pari opportunità, che rispondeva a tutte le onorevoli deputate, e invece fuori alla buvette di Montecitorio c'erano tutti quanti gli onorevoli deputati che stavano prendendo un caffè. Insomma, questa è stata un po' l'immagine. Onorevole Saltamartini. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Saluto la collega Paola Concia. Ma devo dire che in realtà noi siamo usciti da... Sono felice innanzitutto dell'approvazione della legge, questa è la prima cosa, perché almeno alla Camera. Diciamo che noi siamo usciti da 2 giorni molto intensi dell'aula, in cui si è parlato del tema in generale della violenza sulle donne, nello specifico dello stalking. Io ho notato questa differenza tra le giornate di giovedì e di mercoledì. La giornata di mercoledì, forse la stessa onorevole Concia me ne può essere testimone, è stata una giornata molto più partecipata dagli uomini. Cioè, quando si è parlato del fenomeno complessivo della violenza sessuale, perché in quell'occasione erano in discussione 3 mozioni presentate dal PD, dall'Italia dei Valori e dal PDL, ho visto molta più attenzione e molta più sensibilità al tema complessivo. Nella giornata di giovedì e di mercoledì ho visto 2 tipi di partecipazione diverse. In quella di giovedì, effettivamente, in cui si parlava dello stalking, devo dire che ho visto una presenza minore degli uomini in aula, ma allo stesso tempo, siccome tra l'altro, come prevede il regolamento parlamentare, la conferenza dei capigruppo che calendarizza in aula le discussioni sui vari disegni di legge piuttosto che sulle mozioni, vorrei ricordare che purtroppo da un punto di vista femminile i capigruppo sono tutti uomini. Per cui il fatto stesso che la capigruppo presieduta dal Presidente della Camera, in questo caso l'onorevole Gianfranco Fini, abbia comunque celermente calendarizzato, una volta uscita dalla Commissione, il testo sullo stalking in aula, mi lascia comunque estremamente soddisfatta. Diciamo che probabilmente gli uomini erano forse più spaventati di questo tema dello stalking, perché secondo me forse qui abbiamo mancato noi donne. In alcuni casi non siamo state così brave a spiegare di che cosa stessimo parlando, e credo che ieri, in una battuta che ha voluto fare l'onorevole Giulia Buongiorno, quando anche lei ha fatto la dichiarazione di voto finale ringraziando tutti i colleghi e le colleghe che avevano partecipato al testo, ha detto Non preoccupatevi, colleghi, non stiamo chiedendo agli uomini di non cortarsi più. Ecco, questa è stata una battuta che l'onorevole Buongiorno ha fatto, ma da fine donna politica, oltre che da fine avvocato, non è stata casuale la battuta. Ha voluto dare un segnale molto chiaro per far capire che qui si sta parlando di un reato molto grave e molto serio, che nulla ha a che fare con un corteggiamento magari un po' più, diciamo, espansivo rispetto alla normalità dei casi. Su questo forse quella battuta è servita anche a far ricollegare la sensibilità maschile al tema. Io so che la buvetta era piena comunque di deputati. Onorevole Paola Concia, è stata un po' questa l'impressione, no? Anche quando lei battagliava con il ministro delle pari opportunità perché è stato bocciato un suo emendamento. Insomma, che tutte le donne erano in aula e tutti gli uomini erano andati a prendere il caffè. Sì, no, io sono abbastanza d'accordo con Barbara Saltamartini. Tra l'altro, mercoledì, quando noi abbiamo approvato la mozione unica sulla violenza sessuale, insomma, abbiamo fatto un ottimo lavoro, una cosa ottima, un ottimo messaggio alle donne, come l'abbiamo fatto giovedì quando abbiamo approvato tutti insieme la legge, anche se ovviamente da parte nostra del PD, visto che nella scorsa legislatura l'avevamo lanciata noi, che poi non siamo riusciti a approvarla. Chiaramente, questo mi è chiaro, però noi c'era una maggioranza sexy, si diceva all'epoca, la scorsa legislatura, e quindi non siamo riuscite, per cui noi l'avevamo molto a cuore quella legge, perché ci abbiamo lavorato molto. Io sulla legge che è stata approvata avevo alcune cose che avrei voluto che ci fossero e non ci sono state, ma sono ugualmente soddisfatta. Io penso che la presenza degli uomini, come diceva lei, è perché questo è un reato subdolo, è una cosa un po' naturalmente che al di là della violenza sessuale, questo è un reato che mette molto in gioco le relazioni tra gli uomini e le donne, perché come tutti sanno i reati di stalking sono lo stalker, e soprattutto un ex fidanzato, un ex marito, una persona che si conosce, quindi è un reato che ha a che fare molto con le relazioni tra gli uomini e le donne, con la libertà femminile anche di dire di no, con gli uomini che non l'accettano, e io credo che per gli uomini sia più difficile accettare questa cosa, perché davvero dal punto di vista simbolico, mentre la violenza è un atto di violenza bruta, lo stalking è molto più subdolo e quindi per gli uomini è più difficile. È anche vero, sono d'accordo con la Saltamartini, che forse noi su queste cose li dobbiamo coinvolgere di più, sono assolutamente d'accordo, anche perché, diciamoci la verità, noi siamo purtroppo soprattutto le vittime di questi reati, e io non sono neanche contenta che si continui a parlare delle donne sempre in questa veste di vittime. Noi dentro l'aula non c'era nessuna vittima, cioè sul piano simbolico, le deputate che sono lì di destra e di sinistra sono tutte donne autorevoli. Noi dobbiamo anche dare messaggi diversi, purtroppo questi reati esistono e quindi hanno a che fare con la cultura di questo paese, e bisogna lavorare molto, ma con la Saltamartini ce lo siamo detto, su una cultura paritaria, sul rispetto delle donne in questo paese, non solo attraverso le leggi che sono fondamentali. Allora io la interrompo onorevole Paola Concia, perché proprio per dirle che cosa è successo giovedì a Washington, quando, circondato da un drappello di donne simbolo, come ci scrive Arturo Zampaglione su Repubblica, il presidente Barack Obama ha firmato la prima legge della sua presidenza, un provvedimento che promuove la parità salariale e prende il nome da Lilly Ledbetter, una donna dell'Alabama ed ex dipendente della Goodyear, che scoprì dopo 19 anni di lavoro di essere stata pagata meno dei suoi colleghi maschi. Vi impegnate, prima l'onorevole Saltamartini, a far passare una legge sull'equità salariale in Italia? Assolutamente, anche perché tra l'altro ci sono delle differenze tra Italia e America, nel senso che negli Stati Uniti le donne percepiscono fino ad un 25% in meno a parità di livello e di inquadramento rispetto agli uomini. In Italia, diciamo, per fortuna la percentuale è meno alta, siamo intorno tra l'8 e il 10% di retribuzione salariale in meno. Anche se devo dire però che l'Italia è un po' più avanzata degli Stati Uniti in tal senso, perché mentre in America nero su bianco non c'era scritto nulla, in Italia, se non altro, c'è una legge nella quale è ben specificato che gli uomini e le donne a parità di livello e di inquadramento devono percepire la stessa remunerazione. E in Italia però il problema è un po' più diciamo contorto, perché oggi effettivamente a parità di livello si percepisce la stessa somma di denaro, quindi lo stesso salario. Il problema vero però sono gli oneri accessori, ossia tutti quegli strumenti economici che vanno a sommarsi alla busta paga base, a cui le donne difficilmente arrivano. Perché? Perché purtroppo sono quelle che devono più prendere ore di permesso, perché ahimè in Italia conciliare... Insomma, sono gli straordinari che ci fregano. Sono i famosi straordinari innanzitutto, ma sono anche le, diciamo, se vogliamo allargare un po' il discorso per renderlo un po' più completo, sono anche le difficoltà che noi donne abbiamo a crescere anche all'interno del mondo del lavoro, nei ruoli apicali, no? Allora, rispetto a questo, noi abbiamo la necessità assoluta di far sì che una parità formale diventi parità sostanziale. Io la prendo come una promessa. Onorevole Paola Concia del PD, brevissimi, siamo in chiusura. Sì. Vi impegnerete per una legge sulla vera parità salariale? Ma guardi, io ieri mattina quando ho sentito la notizia che la prima legge che Barack Obama ha firmato una legge sulla parità sostanziale degli uomini e le donne dal punto di vista salariale, mi sono venute le lacrime, nel senso che anche dal punto di vista simbolico. Ha ragione Barbara che appunto in Italia, però noi in Italia siamo ancora molto indietro nel mercato del lavoro, le donne. Ha ragione che noi ci abbiamo, però io credo che noi dovremmo, la nostra generazione, quella di mia e quella di Barbara Saltamartini, ha un grande compito: far crescere il valore femminile nella nostra società e quindi... E anche il valore economico. La quota rosa. Pensate un po' che strano, dopo tanti anni a passare a fare le modelle, a Via Margutta, ad essere chiamate dai pittori, adesso le donne vogliono anche fare le pittrici, ma ci saremmo montate la testa. Paola Gandolfi, pittrice in mostra Donne di Roma, una mostra promossa da Repubblica, poi parleremo anche con Giuseppe Cerasa, capo cronista della cronaca di Roma di Repubblica. Insomma, lei dipinge da quanti anni e che quadro ha presentato a questa mostra? Dipingo da 25 anni, quindi da tantissimo, non dipingo solo, faccio installazioni, video, eccetera, eccetera. E ho portato a questa mostra un quadro che si intitola Sindrome del falso ricordo. È un quadro grande, 190x190, e rappresenta una scala particolare, perché è una scala del cinema Alcione che disegnò mio padre architetto, insieme all'ingegner Morandi. E quindi la sindrome del falso ricordo, chissà, qualcosa di psicoanalisi dovrebbe fare un po' capire. E in più, sopra a questa scala sono dipinti due specchietti retrovisori, e quindi ricordo il retro, no? E lì c'è questa donna. La donna che ci doveva essere in questa mostra, che appunto è dedicata alle donne romane. E invece nello specchietto retrovisore di sotto c'è un paesaggio. Ma lei dipinge solo donne? Sì, io dipingo solo donne, da tutta la vita ho dipinto solo donne, perché proprio il mio lavoro è centrato da sempre sulla ricerca di un nuovo linguaggio, e di un linguaggio al femminile. Ma lei come si trova con i colleghi uomini? L'accettano una donna artista? Beh, oppure c'è ancora questo retaggio che le donne possono fare le modelle e basta? Guardi, fino a pochi anni fa è stata una difficoltà tremenda. Io sono stata molto fortunata perché ho lavorato tanto da sempre e gli uomini mi hanno accettato. Perché, però bisogna lavorare il triplo, il doppio degli uomini, bisogna farsi accettare, certo, cioè bisogna avere una testa durissima e forse bisogna essere più matti di altri per poter raggiungere un po' di notorietà, insomma. Non tanto di notorietà, ma solo di essere accettati dagli altri artisti, ecco. E così poi anche dai galleristi. Roma è una città che appunto sempre fino a 10 anni fa non esponeva donne, c'erano 3 o 4 donne che esponevano. Insomma, Frida Kahlo non sarebbe potuta nascere qui in Italia. No, non auguro a nessuna donna artista di nascere in Italia. No, ma è carino che il gallerista non esponeva le donne, ci fa molto piacere, soprattutto magari quando le ricapiterà venga di nuovo in trasmissione e li denunciamo questi signori. Allora, in America c'erano le guerriglia guerre, hanno messo bombe dappertutto, invece in Italia bisogna stare più calmi. No, ma noi non mettiamo bombe, noi mettiamo sempre fiori sui loro cannoni, come diceva una vecchia canzone pacifista. Giuseppe Cerasa, uomo, ideatore ed organizzatore della mostra Donne di Roma. Come le è venuta l'idea? Come ti è venuta l'idea, visto che sei un collega? E quanti quadri, fino a quando sarete all'auditorium? Dove esattamente si possono ammirare queste opere, ecco, di questi artisti? Cominciamo dall'ultimo, sono 58 opere. Si possono ammirare nei foyer dell'auditorium nel Parco della Musica di Roma fino all'8 marzo, che è una data significativa. Abbiamo voluto protrarla fino a quella data, appunto perché non è casuale. Questa mostra arriva dopo 10 anni di un progetto che dura appunto da 10 anni, che vede sulle pagine della Cronaca di Roma pubblicare dei racconti che vengono illustrati da pittori contemporanei. Quest'anno abbiamo voluto fare appunto un'occasione decennale, una full immersion che è durata un anno, quindi sono qualcosa più di un anno, sono 58 appunto artisti che hanno illustrato 58 racconti inediti del meglio della letteratura italiana. E tra questi artisti troviamo il meglio dell'arte italiana, naturalmente. Quindi Donne di Roma era un omaggio doveroso a questa città, che noi leggiamo molto spesso al femminile, anche e soprattutto in occasione di periodi così tristi, così bui, in cui le donne ritornano alla cronaca come vittime di violenze, anche cieche, come dimostrano appunto gli ultimi fatti che hanno caratterizzato la vita sociale, chiamiamola così, sociale, insomma, della città. E quindi era un omaggio di rigore per celebrare una data, i 10 anni, che sono significativi, sono un momento di un traguardo che noi siamo orgogliosi di aver raggiunto. Ricordiamo che nella precedente parte abbiamo parlato proprio di stalking, abbiamo parlato di stupri. Il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha promesso più lampioni alle fermate degli autobus, però focalizzare il fatto anche dell'arte rispetto alle donne è molto importante. Qual è il quadro che ti ha colpito di più, Giuseppe? Ma è un po' imbarazzante dirlo, a me piacciono tutti, quindi piace questo sforzo collettivo che anima scrittori e artisti, quindi li mette di fronte a un progetto che vede protagonisti 116 persone che appunto si divertono, comunque si impegnano a tratteggiare, come dire, a tessere un filo comune che quest'anno è la donna, l'anno scorso erano i colori. Altri anni erano delle trame gialle, altri anni erano delle sensazioni, Vacanze Romane, per esempio, è stata una delle serie più belle, che appunto traeva spunto da un film, ma anche da un'attitudine metropolitana. Ecco, questa delle donne devo dire che è la più compiuta, ci sono bellissimi lavori, ci sono bellissime installazioni, è una mostra che secondo me vale la pena vedere dalla prima all'ultima opera, e poi ognuno ovviamente trae un giudizio personale su quello che l'immagine che lascia più segno nella propria memoria. Ringraziamo Paola Gandolfi, pittrice in mostra Donne di Roma, e Giuseppe Cerasa, ideatore e organizzatore della mostra. Ricordiamo che è aperta fino all'8 marzo all'auditorium, anche per chi dovesse passare a Roma a fare le vacanze in questo periodo, c'è questa possibilità. E ci occupiamo adesso di cinema, perché intanto vogliamo fare le congratulazioni a Ilaria Occhini, protagonista del film Mar Nero e vincitrice del premio migliore interpretazione al Festival di Locarno. Buongiorno Ilaria. Buongiorno e grazie. Lei nel film è una signora anziana, è una storia signora anziana, sì. È una storia al femminile. Sì. È il rapporto tra un'anziana e una badante russa. È romena di Sulina, che è una città cittadina del Mar Nero, vicino al Mar Nero, e cioè sul delta del Danubio. E questa signora, la ragazza gli domanda: signora, potrei telefonare che in Russia? Perché per lei appunto tutto è Russia, quel che è da quelle parti. No, no, questa donna è una donna sola, ha perso il marito e il figliolo sta lontano, fa le sue visite per Natale, per Pasqua, ma insomma poco più, e non vuole avere però, vuole star sola, non vuole avere nessuno attorno. Invece il figliolo gli mette la badante, perché? Perché ha dei malanni alle ossa, perché secondo lui non può star sola, giustamente. E lei molto diffidente, ostile all'inizio a questa ragazza, e invece nascerà un rapporto bellissimo, in lei rifiorirà il senso materno e per lei sarà una nuova figlia. Ma insomma è un film molto molto delicato, divertente molto nel dialogo, e a me mi ha affascinato e per fortuna mi ha dato una grande soddisfazione. Allora, noi ringraziamo proprio Ilaria Occhini e ricordiamo il film Mar Nero, che esce proprio in questo weekend, il rapporto tra un'anziana e una badante rumena. E chiudiamo con quella frase su la Russia, no? Tutto quanto sembra Russia. Io intanto ringrazio Paolo Corleoni in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Un saluto da Elisabetta Fiorito con la clip da Mar Nero. Signora, domani può essere telefonare? Possibile telefonare? Non ho capito, vuoi telefonare? Sì. E a chi? In Russia? No, a Firenze, a Florenza. A Firenze? E a chi? A cumnata Irina. Sì, a Firenze. Grazie.